Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica. Take me tonight, I'm an easy lover. Take me into the fight, I'm an easy brother. Che se le tasse vanno giù, l'economia cresce. È la dimostrazione di questi anni. Chi vuole aumentare la benzina e l'IVA è fuori strada. Fosse possibile, col senno di poi, fare il bonus di 100 euro, non di 80 euro. Perché il bonus di 80 euro, finalmente i soldi al ceto medio, a quelli che non arrivano alla fine del mese, da chi è criticato? È criticato dai super ricconi, dagli ipermilionari, dai Beppe Grillo e dai Silvio Berlusconi. Abbiamo proposto il referendum, ci hanno detto di no. Il Mattarellum, ci hanno detto di no. L'Italicum al Senato, ci hanno detto di no. Ci facciano sapere anche se hanno delle idee. Facile criticare dalla mattina alla sera, ma anche gli altri ci dicano che cosa hanno in testa. Avevo detto che non sarebbe apparso più in TV, in comparsate, ieri, la strategia renziana nuova, e invece qui al TG3... Al TG3 subito, Renzi. Come mi sono divertito. Lo so, presidente, qui sta mettendo a punto, è tutto ormai quasi pronto per la conduzione di De Luca. Maestrina supponentina. Iniziamo così proprio a, come dire, a trattare male colui che comunque, caro presidente, ti ha portato degli ascolti fino a qui. Adesso non entriamo subito in conflitto. Gallo cendrone. E allora procediamo così, per strattoni e sgomitate. 13.000 euro netti al mese. Questo è chiaro, questo l'abbiamo già comunicato al direttore del personale e pare che ci sia già quasi la firma. Quindi. Che spettacolo, che spettacolo. A posto. Intanto voglio segnalare, cari ascoltatori, che a Correggio ci sono 11 gradi, salutiamo Luciano, mentre ad Albino, provincia di Bergamo, vento fresco, nuvoloso e 12 gradi. A Novellara 13 gradi, mentre a San Donà di Piave c'è la quiete dopo la tempesta, ma senza leopardi, e 12 gradi. Aspettiamo la donzelletta che viene dalla campagna, va bene? Vabbè. Rino da Salerno ci fa sapere che ci sono 10 gradi, mentre a Prezza, in provincia dell'Aquila, ci sono 8 gradi Celsius. Ci scrive Filippo Celsius, sì, va bene. Agostino da Recoaro Terme, 8 gradi e piove. Il paese più depresso del Veneto. Ma perché il paese più depresso del Veneto? Ma non credo. Vabbè. Prima o poi saluterete anche me, Luigi da Monaco di Baviera, 6 gradi con pioggia. Caro Luigi, un grande abbraccio, non ti avevo visto negli altri giorni, siete talmente tanti che, insomma, che devo vedere. Eccoci, a Monaco di Baviera. Io, Maurizio Costanzo, la mattina ascolto Alessandro Milan dalle 6:30 alle 9, che è giusto il tempo che mi serve per fare colazione, Lo dica anche lei, Milan, Patrizzi o no? Va bene. Il grandissimo Barti Colucci, guarda, io quando lo ascolto, che fa le imitazioni soprattutto di Costanzo su RDS, mi piego in due, sono come un... diciamolo, un pirla che guida alle 5 del mattino ridendo. Un giorno la polizia mi ferma, mi arresta per insomma, mi giudica subito sotto effetto di droga se mi ferma mentre sto ascoltando Barty e le sue imitazioni. E va bene, sono le 6:35 minuti, questo è 24 mattino, siete su Radio 24. Ben svegliati con Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, e voglio salutare subito Flavia Perina. Buongiorno. Buongiorno. Hai sentito che ascoltatori importanti che abbiamo? Sì, anche... no, veramente qualificatissimi. Sono onorata stamattina di stare in questa trasmissione. Pensa il pezzo, cosa fai? Siedi la conduzione a De Luca? Suona. Sì, sì, sì, questa è la conduzione 4.0. Sai che c'è l'industria 4.0? Noi stiamo mettendo a punto tutti i pezzettini di De Luca che un giorno condurrà, metteremo, sarà una regia senza conduzione, è una cosa nuova, una cosa innovativa. Molto bello. Ma sì. che va a capire? Anche meno costosa per voi. Beh, oddio, 13.000 euro al mese, hai sentito che... Ma cosa ne sai tu che sei ancora ancorata al PD? Hai aiutato a Roma Giachetti mentre a Roma sono nel futuro, vogliono fare la tecnologia. Sì, noi qua a Roma mandiamo avanti i motori con l'intelligenza, questa l'hai sentita? Sì, adesso ne parliamo. Però Flavia, ti voglio presentare il direttorone, il nostro direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno caro Luca. Buongiorno. Allora, io ti chiamo ancora direttore di Vanity Fair, anche se c'è una novità importante che ti riguarda nel futuro immediato. No? Mi sembra di aver letto. Sì, esatto. Tra un paio di settimane, diciamo, lascio la direzione di Vanity Fair, divento direttore editoriale di Condé Nast. Quindi da direttorone cosa ti dobbiamo chiamare? Direttorissimo pare che non piaccia questo. No. Luca va bene. Va benissimo Luca. Va bene, dai, apriamo, complimenti ovviamente, e apriamo il Parlamento. Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza gente, accorrete al bar. Oh, devo dire però, lo so che sono le 6:37, sono un orario in cui magari la gente si è appena svegliata, però io, siccome ho questo vantaggio rispetto agli altri, cioè leggo i giornali alle 5:30, sai che vantaggio voglio dire? No, ma voglio dire, è un vantaggio in questi casi. Allora... Già da un'ora mi girano queste immagini che sono sulle prime pagine di tutti i giornali, che provengono dalla Siria, eccetera. O capisco che l'orario è di quelli un po'... Ma... Insomma, vedere l'attacco con i gas ai bambini... Mi è venuta in mente la famosa vecchia teoria. Poi ho visto quello che dicono dalla Casa Bianca, cioè mettono sotto accusa Assad... dicono però in questo momento non c'è un'alternativa. Lui mi è venuta in mente la vecchia politica, non so, Luca Dini, kissingeriana, no? Quando si diceva è il nostro figlio di e quindi è vero, è un figlio di puntini puntini, ma è il nostro figlio di puntini puntini. Ma ci dobbiamo accontentare di questo, insomma, per assistere a quello che sta succedendo in Siria? No, è il discorso classico che si fa tutte le volte. Era meglio Saddam o quello che è venuto dopo? Erano meglio i regimi? Era meglio Gheddafi o meglio quello che è venuto dopo la famosa primavera? Io continuo a pensare che questi signori qua vadano rimossi. Lo diciamo e lo sappiamo da molti anni. E il fatto che all'opposizione di Saddam ci siano persone che non ci rassicurano non è un buon motivo per tenere in piedi quello che sappiamo da tempo essere un dittatore sanguinario. Sì. E cioè, mi fa un po' ridere Trump che adesso si accorge che Assad è quello che è, poi però ha fatto l'amico di Putin fino all'altro ieri, anzi continua a farlo. Putin è chiaramente dietro Assad, sì. Quindi anzi l'ha aiutato a bombardare, quindi voglio dire, decidiamo da che parte stare. Il fatto che io non credo alla politica del meno peggio. Lo so, ma questo è un po' quello che sembra almeno la reazione internazionale. Cioè Assad è una gran brutta bestia, ma ce la dobbiamo tenere. No, Flavia, a volte purtroppo c'è anche quel pragmatismo, quella realpolitik un po' dura. Ma in realtà in questo momento la politica estera americana è totalmente indecifrabile. pare di capire che l'amministrazione Trump abbia rinunciato alla filosofia dell'esportazione della democrazia che era tipica delle amministrazioni precedenti. Sì, sì. Su questa filosofia io ho dei grandissimi dubbi, ha prodotto dei disastri, è impossibile, e lo abbiamo verificato sul terreno, esportare la democrazia in armi, perché ne nascono problemi peggiori. Noi abbiamo tutta quell'area adesso totalmente destabilizzata dall'ISIS, un pasticcio ingovernabile, dal quale le superpotenze cercano in qualche modo di venire fuori, ma non si è ancora ben capito. Se la posizione di Putin è molto chiara, Putin è filo Assad, lo è sempre stato, lo difende, quella americana è assai poco chiara, perché manda dei segnali estremamente contraddittori. Detto questa è un'orribile strage di civili, di donne e bambini, come ce ne sono state in questa guerra. Il timore poi che tra 24-48 dalla ore dalla Siria ci sono 6 milioni di profughi. Il problema centrale anche dell'emergenza profughi in Europa è stato legato alla crisi siriana, e un impegno di tutti per risolverla in un modo o nell'altro, penso che forse metterla così per far capire ai cittadini italiani che appunto da lì poi arrivano i profughi, arrivano le ondate di immigrati, quegli immigrati che tante persone non vogliono, che tante persone alle quali si oppongono, ecco, forse farlo capire, fare toccare con mano i riflessi, poi le conseguenze di questa guerra, può essere un buon modo per dire alla gente almeno aprire gli occhi, occuparsene. Tra l'altro, visto che avete citato Salvini, grande amico di Luca Dini, te lo faccio sentire, perché grazie alla Russia per il suo intervento in Siria, Salvini, sentilo qui quando dice grazie alla Russia per il suo intervento in Siria. E ringrazio ancora Putin e i russi, perché sono stati i primi a mettere piede, testa e scarpa sul suolo siriano per sradicare l'ISIS dalla faccia della terra, e mi spiace che la stiano pagando, mentre a livello europeo c'è qualcuno che ritiene che il nemico sia Putin e la Russia e non il terrorismo islamico. Purtroppo siamo circondati da un buon numero di cretini o di complici. Eccolo lì. Vabbè, mi chiedono anche di Razzi. Vabbè, ma dobbiamo commentare il selfie di Razzi con Assad. Ma signori miei, dai. Avrebbero bisogno entrambi di un bello stage, diciamo, in Siria. Uno stage nelle zone colpite. Sì, ce li manderei entrambi proprio per un mesetto, così. Un mesetto, così. Uno stage. Allora. Va bene, dai, comunque poi vedremo in rassegna stampa, approfondirò, ma comunque sono soprattutto, più che gli articoli, questa volta le immagini che colpiscono, a volte le fotografie sulle prime pagine dei giornali, soprattutto dei bambini colpiti, è innegabile, insomma, che hanno un peso anche su chi le guarda, è un peso notevole. Se vogliamo venire alle questioni italiane, allora sì, partiamo da Roma, perché da Flavia Perina voglio avere un parere. Insomma, a Roma vogliono lanciare nel comune questa idea della democrazia partecipata, che il Movimento 5 Stelle porta sempre avanti da tempo, e cioè ora mettere tutto sul web, decidere, non so, lo stadio sì, no. Poi cosa possiamo fare, Flavia? Cosa si sta decidendo a Roma? A posto che a Roma via oggi Craxi, sì, no, no. Il problema principale è il derby, però questo lo scassiamo e parlate dopo, perché oggi, diciamo, a Roma di questo si parla. Sì, anche ieri. Anche ha vinto ieri. La Roma, ma è uscita, insomma, ecco. Ha vinto la Roma, ma è passata la Lazio, ecco, che è quello che conta. Posto che questo è il principale problema della città in questo momento. La proposta del 5 Stelle è una proposta anche suggestiva, no? Le decisioni della città le facciamo prendere alla rete, non si capisce bene come, ma il punto qua a Roma non è che è prendere decisioni, il punto è realizzarle, perché poi i cittadini possono decidere qualsiasi cosa. L'altro ieri si è deciso per esempio la bonifica, restando sempre sul tema stadi, di uno stadio storico a Roma, che è lo stadio di Campo Testaccio, ed è una cosa decisa da moltissimi anni. Ieri si è scoperto che questa bonifica non si può fare perché si sono perse le chiavi dello stadio e quindi non riescono non è male. Abbattiamolo a questo punto, non ci sono più le chiavi, abbattiamolo. Quindi non so chi ha risposto a un'interrogazione dicendo: ma noi abbiamo tutta la buona volontà, ma non troviamo le chiavi. Quindi a Roma il punto non è prendere le decisioni, è metterle in pratica, realizzarle e muovere la macchina amministrativa, una cosa che al momento non è successa. Però questa cosa cosa dell'idea di coinvolgere i cittadini. Luca, è interessante perché c'è chi dice ma i cittadini non sono in grado di decidere su progetti. Non è che sì, possono avere un'idea, ma non è che possono rendersi conto di, non so, se fare o no le Olimpiadi, giusto per rimanere. Però nelle altre, non so, negli altri paesi, in Germania lo fecero per esempio un sondaggio: volete le Olimpiadi, non so se ad Amburgo, Colonia, non lo so. Ma non è un problema, perché c'è qualcuno che ti dice prima che cosa devi scegliere, quindi... E dici, è già deciso. Beh, finora è stato così, se da domani sarà diversamente vedrai. Cioè tu non ti fidi molto dei sondaggi di Grillo, dai, diciamo, sulla rete quando no, fa le consultazioni. No, non mi fido, perché c'è sempre un'indicazione precedente, poi se le cose vanno in modo diverso da quello voluto, c'è qualcuno che riesce a ribaltare la decisione, quindi... l'uno vale uno, mi fa un po' ridere. Non è così. E poi allora comunque... mettiamo se si riuscisse invece, se fosse tutto certificato, tutto, l'idea ti piace oppure no? Comunque. L'idea mi piace se c'è informazione e consapevolezza, perché poi in realtà far decidere così su qualsiasi cosa senza un po' così a capocchia non necessariamente mi piace, no? Amministrare vuol dire anche prendere decisioni a volte impopolari, se no non si va da nessuna parte, secondo me. Vabbè, io posso essere d'accordo sul fatto che uno decide e poi dopo 5 anni o dopo tot anni, voglio dire, si sottopone al giudizio popolare, che è quello del voto. Quello il vero giudizio popolare, solo quello, secondo me, poi posso sbagliare. Va bene, intanto andiamo al traffico, poi rientriamo con Flavia Perini e Luca Dini, siamo qui. La colazione dell'italiano: cappuccio, cornetto e traffico a Bologna. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Scusate, secondo la mia opinione i magistrati in politica non devono mai accedere, non devono mai fare politica, perché non concludono un cazzo. Ma dai, non facciamo ridere. Michele Emiliano, ritirati. Milan, buongiorno. Volevo dire ai telespettatori che mio nonno negli anni 60, ai nomadi, a chi rubava le galline, i polli, le cartucce, toglieva i pallini e ci metteva il sale grosso. Oggi esistono i proiettili di gomma, è quasi ora che vengono messi in commercio. Grazie e viva l'Italia. Alino, quando dite del tempo, perché non mettete le zeppe con good time, bad time, che almeno si fa contenti gli intenditori, buona musica. Stato, politicamente stabile, ebbene rassegnatevi, perché questa maggioranza va avanti con forza, prosegue nella realizzazione del proprio programma nell'interesse unico dei cittadini romani. Vabbè, qua siamo diventati a radio anni 70, no? Dove ci sono le richieste radiofoniche. Vorrei chiedere un pezzo dedicato a Flavia Perina e le Zeppelin. Flavia, ti porto sempre nel cuore. Ti piace questa cosa? Ma che carino questo ascoltatore. Non so il nome, però lo porto nel cuore anch'io, perché no. Le Zeppelin poi mi piacciono tantissimo. Sì, bene. Però adesso non iniziamo, cari ascoltatori. Dopo uno c'è quello che vuole Modugno. Noi abbiamo una cifra da mantenere. Insomma, con tutto rispetto per Modugno, poi c'è quello che ci chiede Albano. Ma qua stiamo parlando di Le Zeppelin, non di Modugno. No, infatti, no, ma era per dire che non vorrei poi si arrivasse. E ci siamo capiti, ecco. No, adesso rispetto massimo per Modugno nel blu dipinto di blu, ecco. Vabbè. Però siamo con Luca Dini e Flavia Perina. Signori, non lo dico io, non lo dicono i soliti di destra, non lo dicono, ma oggi, siccome c'è tutto questo dibattito sulla ancora la legittima difesa, eccetera. Oggi basta leggere sul Fatto Quotidiano, che certo è un giornale non lontano dai giudici, dai magistrati, eccetera, il procuratore di Udine, guarda come si chiama qua, De Nicolo, che dice: la verità è che in Italia conviene delinquere, perché tanto se non ti becchi almeno 3 anni di carcere, in carcere non ci vai. In Romania, lo dice questo procuratore, in Romania una collega rumena giudice mi dice: se rubi una bicicletta vai in carcere, qui se rubi un'auto, per dire, non vai in carcere. Ma è un esempio, un paradosso, per raccontare che insomma c'è qualcosa che non funziona, Luca. Poi l'abbiamo detto tante volte, caro Luca, che sono i magistrati, applicano le leggi, non è che possono inventarsi di sbattere in carcere uno se la legge non li supporta. E cambiamo le ste leggi, o no? Sì, non sempre le applicano bene, aggiungo. È vero, a volte e sì. E non sempre con velocità, solerzia e efficienza. Quindi cambiamole, per carità. Sì, no, dopodiché spaventa anche a me vedere i discorsi, quelli veramente di basso livello, tipo armiamoci tutti. Ma armiamoci tutti di che? Ma io, se mi danno in mano una pistola, rischio di spararmi un colpo alla gamba dopo 2 secondi, per dire. Cioè, no, non lo so, Flavia, tu saresti in grado di maneggiare un'arma? Se... Io non credo, e poi penso che il Far West non convenga a nessuno, no? Perché nel Far West qualche volta muoiono i cattivi, ma molto spesso muoiono gli innocenti, muoiono i buoni, no? Alzare il livello dello scontro con la criminalità organizzata e non organizzata non credo che convenga al singolo cittadino. Abbiamo avuto un esempio di recente dell'ultimo episodio di questo tipo che è successo. E come no, ma infatti. E dopodiché è stupefacente che un magistrato dica cose di questo genere, posto che tutti i provvedimenti di limitazione della libertà personale dipendono dalla magistratura. È la magistratura che decide chi sta in galera e chi è. Sì, però a volte poi dice fanno ricorso e via. Fanno ricorso, ma sempre un magistrato a decidere i ricorsi. Sì. Non è che fanno ricorso e decide domine e Dio. Però in teoria sulla base della legge. Comunque questo discorso ci porterà troppo lontano. Una cosa ben più concreta, che è la rubrica che abbiamo iniziato da un po' di tempo e vogliamo rispolverare oggi, perché i nostri ospiti mi devono aiutare, è quella delle metafore di Bersani. Per me la metafora riesce, se fatta bene, a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte a tutti quanti. E questo è sacrosanto. Oggi vi voglio proporre, e dovete aiutarmi, questa. Siamo mica qui a spegnere le candeline con l'estintore. Siamo mica qui a spegnere le candeline con l'estintore, cosa che non si fa. Lo so, Luca, tu in genere mi confermi. No, ai Capodanni no. Non è che ti presenti con l'estintore. Cosa avrà voluto? No. Cosa avrà voluto dire Bersani? Secondo me niente. No, no, no, dai, niente. Non sapeva che cosa dire. Flavia, cosa avrà voluto dire con questa immagine? Guarda, non ho idea, perché poi Bersani è anche creativo, perché in realtà per esprimere questo concetto c'è un modo di dire italiano, che è sparare alle zanzare col cannone, cioè fare una cosa esatto. Cioè, invece di usare, diciamo, questa metafora corrente, lui ha voluto inventare le candeline. Chissà, io mi chiedo se ha un copyright. Non so, secondo me è un autore. Un autore, oppure se è tutto frutto della sua. Chi lo sa. Intanto questo, io vi voglio lasciare con la copertina di Vanity Fair. C'è un giovanotto, segnalo a Flavia Perina, un giovanotto che si chiama Sting, ha 65 anni. Dai, non è vero che questa foto di quando è, Luca? È di quando ne aveva 30. Ah, ecco, appunto, no, perché no, ho detto mi sono rincoglionito, oppure a 65 anni ha fatto il patto altro che con il diavolo. Sting in copertina di Vanity Fair, numero che trovate in edicola. Ringrazio il direttore Luca Dini e Flavia Perina e ci troviamo alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. A Vinitaly Padiglione 3, trentodoc.com. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Anquo. Alessandro Mina e leggerà i giornali come uno che legge i giornali. E che tanki skate 24 mattino. Ebbene sì, sono le 7:21 minuti tra qualche secondo. Siamo pronti a leggere i giornali, per l'appunto, la rassegna stampa di 24 mattino. Oggi purtroppo anche con notizie tragiche che abbiamo sentito arrivano dall'estero, in particolare dalla Siria. E allora andiamo a leggere i giornali. Io Maurizio Costanzo la mattina ascolto Alessandro Milan dalle 6:30 alle 9. Bene. Che è giusto il tempo che mi serve per fare colazione. Lo dica anche lei, okay, Milan, okay. Ma sì o no? Sia sincero, Va bene, grazie Maurizio Costanzo per questo endorsement. Ah, siamo a mercoledì 5 aprile con i titoli. L'apertura del Sole 24 Ore: privatizzazioni, no a retromarce, tensioni su nuove tasse e catasto, ma l'aumento delle accise sui tabacchi resta in campo. E Pado anche ha parlato all'assemblea del Partito Democratico alla Camera. Poi la vicenda appunto siriana, raid sui bimbi uccisi con il gas, Siria strage nella provincia ribelle. Repubblica, Siria, l'orrore negli occhi dei bambini uccisi con il gas. La Stampa, i gas uccidono i bambini siriani. Gas, strage di bambini è anche il titolo di apertura del Giorno, mentre Avvenire, bambini avvelenati. Soprattutto al di là dei titoli dovete immaginarvi le foto a corredo dei titoli, le foto di bambini morti. Gas sui bimbi, l'umanità è morta, è il titolo del Messaggero. E poi ancora l'unità, l'umanità è morta in Siria e orrore è il titolo del Manifesto, sempre con una foto dalla Siria. Giusto il titolo del Fatto Quotidiano per andare su vicende politiche, PD 150.000 tessere abusive. È il Fatto Quotidiano che dice le primarie sono state dopate. Il 6 marzo il PD aveva 296.000 iscritti, ma a colpi di deroghe sono diventati in un mese 450.000. Va bene, ma buttiamoci appunto in questo orrore, non ci sono altri termini per descrivere quello che appunto è successo in Siria, con il classico rimpallo di responsabilità ovviamente. Il dato di fatto è che c'è stata una strage, 58 persone tra cui molti bimbi, per un bombardamento e per l'uso di gas chimici. O meglio, l'uso di gas chimici, come dicono i ribelli nei confronti del leader Assad, oppure, come dice il regime di Damasco, il comando generale delle forze armate nega di aver usato armi chimiche, ma sostiene che il bombardamento avrebbe colpito un laboratorio allestito dai terroristi dello Stato Islamico. Vai a sapere ovviamente le versioni. Comunque, Davide Frattini, a pagina 2 del Corriere della Sera, la cronaca. Gli idranti sparano l'acqua mentre le bocche cercano di afferrare l'aria. I corpi sono distesi nel fango, gli occhi rivoltati, il tremito che non si ferma. I caschi bianchi sono l'unica protezione indossata dai soccorritori. Intervengono senza guanti, senza le maschere antigas, lavano i feriti, provano a fargli sputare quel veleno che non conoscono. Le bombe sono cadute ieri mattina sul villaggio di Khan Sheikhoun, nella provincia di Idlib, che ancora resiste agli assalti del regime siriano. Questa volta a uccidere non è stata l'esplosione, le case che cadono. Le armi sarebbero state potenziate con un agente tossico. I medici che intervengono negli ospedali sostengono di aver esaminato i sintomi del sarin, un gas nervino. La contabilità della morte è come sempre tenuta dagli attivisti che hanno diffuso i video del massacro, in un paese dove l'accesso per le organizzazioni indipendenti dopo 6 anni di guerra è quasi impossibile. I civili ammazzati sarebbero almeno 60, tra loro 11 bambini, feriti 200. Abbiamo sentito gli scoppi, siamo accorsi per aiutare, abbiamo trovato intere famiglie morte nei letti, racconta un testimone all'agenzia France Press. E qui il rimpallo di responsabilità, i ribelli che accusano Assad che dice noi non c'entriamo, le testimonianze, il salto a pagina 2 di Repubblica, l'intervista è a Feras Al-Jundi, medico siriano che lavora a pochi chilometri a nord di Khan Sheikhoun colpita. È arrivato ieri mattina intorno alle 8 in un ospedale e accetta di parlare in serata via WhatsApp dopo aver passato la giornata a cercare di aiutare i feriti. Quando sono arrivato, dice, verso le 8, in questa intervista di Francesca Caferri, l'ospedale era pieno di feriti, l'ingresso, i corridoi, le sale operatorie, sui tavoli, per terra, ho visto morire subito 10 persone senza poterle soccorrere. Io e i miei colleghi abbiamo capito cos'era successo, abbiamo chiesto che feriti e morti venissero spogliati e lavati fuori dall'ospedale per evitare che anche noi, medici, fossimo contagiati. Ci siamo dotati di guanti, camici, mascherine per evitare quello che è accaduto a Ghuta nel 2013 quando molti dottori morirono per la contaminazione. I feriti non riuscivano a respirare, molti avevano convulsioni, contrazioni, giramenti di testa, perdita di coscienza, spaesamento, pressione bassa, pupille ridotte, arrossamento negli occhi, allucinazioni, paralisi. Sono sintomi che secondo me fanno pensare al gas nervino e non al gas cloro che abbiamo già usato altre volte. Questa è la testimonianza raccolta da Repubblica, ma ogni quotidiano ovviamente si occupa di questo. Avvenire con un titolo a pagina 5, non ha dubbi, Assad ha usato armi chimiche sui civili, questa è l'accusa. Siria e Russia, la Russia che è alleata da Siria nella lotta all'ISIS, negano. E l'orrore che torna in prima pagina dei giornali. Certo, lo si dice, in Siria c'è una guerra da 6 anni, torna per qualche giorno, forse già domani non lo sarà più. Ci occuperemo di altre cose e per 24 ore la Siria è tornata di prepotenza all'attenzione mediatica. Segnalo anche Iena, alias Riccardo Barenghi, sulla pagina 3 della Stampa. Il suo commento oggi è molto molto duro. Assad, se no, quando crescono magari si ribellano. Così Iena vede in maniera molto dura il fatto di avere colpito i bambini. Tra l'altro si parla di Russia, che è attiva militarmente in Siria proprio nel giorno in cui anche la Russia è stata colpita 2 giorni fa a San Pietroburgo da un terribile attentato, i contorni del quale sembrano essere un pochino più chiari, nel senso che le autorità russe hanno messo nel mirino come possibile kamikaze il kirghizo, quindi del Kirghizistan, Akbarion Jalilov, che viene immortalato qualche istante prima dalle telecamere della metropolitana di San Pietroburgo, classe 95, etnia uzbeka, nato in Kirghizistan a Osh, ma naturalizzato russo a 16 anni, presunti legami con i miliziani siriani e con l'ISIS, lavorava in un'autofficina di San Pietroburgo, trasferitosi nel 2012, e aveva simpatie wahabiste, cioè l'ala molto radicale dell'insegnamento islamico, molto forte in Arabia Saudita. Anche grande passione per le arti marziali, come l'arte marziale sambo, e lunedì avrebbe prima deposto un ordigno neutralizzato dagli artificieri sulla fermata, la stazione di Sennaia Ploshad, di Vastania Ploshad, e poi si sarebbe fatto esplodere, se è stato lui, nella metropolitana tra Sennaia Ploshad e Technologicheski Institut sulla linea blu. Questo almeno raccontano i giornali, anche Repubblica. Ma siamo all'articolo e veniamo alle cose italiane. L'articolo che mi fa pensare della giornata è un'intervista che Ferruccio Sansa fa al procuratore capo di Udine, si chiama Antonio De Nicolo, e ringrazio un ascoltatore che mi ha corretto la pronuncia, De Nicolo, e perché prima ne abbiamo parlato anche alle 6.30. L'intervista al procuratore De Nicolo la trovate sul Fatto Quotidiano, a pagina 9. Guardate qui, lo dice un magistrato anche influente, procuratore a Udine, in passato a capo della procura, alla procura di Trieste, poi alla Corte d'Appello di Venezia, di Trieste, consigliere del Ministero dell'Interno. Delinquere nel nostro paese conviene. Tanto, anche se ti condannano in carcere, non ci vai quasi mai. Parola del procuratore di Udine, che alle domande di Ferruccio Sansa sul Fatto Quotidiano dice: ma che facciamo? Il problema della custodia cautelare? Lei denuncia da anni questo problema. Eh già, con la recente legislazione, se tu magistrato non prevedi una condanna superiore ai 3 anni, non puoi applicare la custodia cautelare. E qui c'è un altro problema: il delinquente seriale incensurato. Chi commette reati anche gravi, come certe rapine, spesso non viene preso la prima volta e comunque la condanna arriva dopo anni. Quindi la persona risulta incensurata e non puoi applicare la custodia cautelare. E in sostanza che succede? In sostanza dobbiamo liberarla. Ma come? Mi sta dicendo che delinquere in Italia conviene? Lei ci scherza, dice il procuratore di Udine De Nicolo. Ma una volta una collega rumena mi ha detto proprio così: noi per il furto di una bici diamo una pena molto più severa di quella che date voi per un furto di auto. Soprattutto in Romania la gente in carcere ci va davvero. Ed eccola allora l'ammissione, così, a mani larghe, del procuratore capo di Udine. Delinquere nel nostro paese conviene, in carcere non vai quasi mai. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, la ora con la canuccia rotta dell'informazione. È grandissimo, ma tesoro mio, evviva! Un abbraccino ovviamente. Allora, siamo qui a leggere i giornali con il tema politico del giorno, che il ministro dell'economia Padoan ieri ha parlato, qualcuno dice sui giornali ha affrontato, perché il clima non è dei migliori tra lui e i deputati del PD, appunto ha parlato, ha affrontato i deputati del Partito Democratico, il tema, la manovrina, no? Quella manovrina che dobbiamo fare da 3,4 miliardi per correggere i conti, come ci chiede l'Unione Europea, ma anche il DEF, il documento di economia e finanza, arriveranno tutti settimana prossima. Queste sono le idee. Lunedì forse il DEF e mercoledì la manovrina, forse tutto mercoledì. Restano però i nodi. Padoan rilancia le privatizzazioni, questo è il titolo di pagina 3 del Sole 24 Ore. Gianni Trovati racconta di questo confronto anche con nodi che rimangono sul tavolo. Abbandonate le ipotesi di interventi pesanti sulle accise, la strada politica della manovrina sembra ormai in discesa, mentre in vista del DEF restano in campo le incognite di privatizzazioni e catasto, su cui la temperatura tra Ministero dell'Economia e PD rimane alta, scrive il Sole. Sulle tasse del mattone il nodo è più politico, perché il governo punta a rilanciare nel DEF una riforma che alimenta mal di pancia in Parlamento, ma che difficilmente potrebbe essere avviata davvero nei pochi mesi restanti di legislatura. Per le privatizzazioni invece il problema, oltre che politico, è pratico, perché senza gli 8 miliardi e mezzo di entrate già messi in programma e già rimandati l'anno scorso, a questa voce non sarà facile far invertire la rotta al debito pubblico, che rimane il sorvegliato speciale a Bruxelles. Per questa ragione i due temi sono stati al centro dell'incontro ieri fra il ministro dell'economia Padoan e i deputati del PD. In agenda c'era questa accoppiata DEF e Programma Nazionale di Riforma, attesi lunedì prossimo, e la manovrina correttiva che potrebbe essere varata lo stesso giorno o comunque mercoledì. Su altri giornali questo confronto è un po' più teso. Via la benzina dalla manovra, ma è scontro tra Padoan e PD. Repubblica la vede così, pagina 8, Roberto Petrini, si parla di scontro e di una riunione tesa con i deputati democratici. No alla proroga della rottamazione delle cartelle Equitalia, confermato l'intervento da 3,4 miliardi di euro, vedremo settimana prossima come. Anche per il Corriere, privatizzazione e tasse è gelo tra Padoan e il PD, quindi come vedete è più sfumato il Sole 24 Ore, gli altri giornali invece, guardate La Stampa, privatizzazione manovra, il PD processa Padoan. Quindi tra gelo, processa, tensione, c'è qualcosa che evidentemente non sta funzionando molto tra il Ministero dell'Economia e il Partito Democratico. Che non stia funzionando molto il paese lo si vede anche da questo dato che Repubblica mette in un'inchiesta, pagina 6 e 7. è la certificazione di quanti italiani sono andati all'estero. So che moltissimi tra l'altro ci ascoltano dall'estero, abbiamo fatto la rubrica gli italiani all'estero, ci mandate i messaggi, è bellissima questa cosa, questa community, grazie all'app sul sito di Radio 24 ci potete ascoltare in diretta da tutto il mondo e so che lo fate. Ebbene, sappiate, scrive Repubblica, che gli emigranti over 40 in 6 anni sono raddoppiati. Quindi raddoppiati quelli con i capelli grigi, chi ce li ha i capelli e chi ce li ha magari in perfetta forma, ma insomma per dire quelli sopra i 40 anni. Filippo Santelli racconta le storie di chi per una sfida, per la carriera, per garantire un futuro alla famiglia, per necessità, di chi ha pensato che non è mai troppo tardi neppure per emigrare. Nel 2016, come ogni anno dall'inizio della crisi, gli italiani che si sono trasferiti all'estero hanno toccato un nuovo record. L'Istat ne ha stimati 115.000, quanto una città come Vicenza. Ma se i più giovani, studenti, neolaureati lo fanno sempre da padroni, ci sono invece una coorte di espatriati che ha visto la crescita superiore agli altri. È quella tra i 40 e i 50 anni. Tra il 2008 e il 2014 i quarantenni o quasi cinquantenni che sono andati all'estero sono raddoppiati da 7.700 a 14.300 all'anno. Considerate le persone in età lavorativa, una su 5 sta in quella fascia, una su 3 allargando il conto agli over 50. Viene chiamata la nuova migrazione dai capelli grigi. E beh, ci sono anche delle storie, l'imprenditore, il commerciante, la consulente, chi è andato a Shanghai, chi a Toronto, chi in Irlanda, chi racconta qui lo Stato è amico e non è nemico, qui c'è meno burocrazia, qui le gare sono trasparenti, come racconta per esempio l'emigrato a Toronto. Ecco, le gare trasparenti. Come si fa a saltare il racconto che su Corriere, Repubblica, Il Messaggero trovate un po' ovunque? Di un imprenditore che da un anno sta collaborando, fan sapere i giornali, con il PM Woodcock a Napoli e racconta il sistema di corruzione. Guardate qui, Corriere della Sera, Fulvio Buffi e Fiorenza Sarzanini, tangenti del 2% su ogni appalto, anche i politici si facevano pagare. Sono le rivelazioni di un imprenditore su Manutencoop. Per ottenere gli appalti pubblici, Manutencoop paga sistematicamente una tangente pari al 2% del prezzo di aggiudicazione. Questo virgolettato, è un'accusa pesantissima, arriva da uno degli imprenditori che lavora in consorzio con i vertici della cooperativa più grande d'Italia. Rischia di provocare un vero e proprio terremoto perché l'uomo, Pietro Coci, titolare di Euroservizi, collabora con il pubblico ministero Henry John Woodcock da quasi un anno. Coci ha già fatto nomi di numerosi politici, funzionari, militari della Guardia di Finanza che avrebbero preso i soldi e sui quali sono in corso verifiche, per questo nelle carte delle inchieste i passaggi che li riguardano sono coperti da omissis. Soprattutto ha svelato il funzionamento delle gare, elencando quelle truccate, soffermandosi sulla gara Consip da 13 lotti per i servizi di polizia. Ieri sono state arrestate 10 persone per le commesse della sanità partenopea. Insomma, racconta, e ovviamente va verificata la veridicità di questo racconto, di tangente di 2% che come titolo Repubblica è prassi. Prassi. Così. Una cosa normale. È prassi. È prassi anche per noi avere il nostro Mauro Meazza, una tangente molto dolce che paghiamo ogni giorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, caro Alessandro. Vedo che sempre questa cosa, non capisco perché le inchieste, dolce, dolce, la corruzione ti portano al mio momento, al mio collegamento. Questo mi rimane sempre un dubbio. Così. Comunque, glissando su questo aspetto invece, ti voglio dire. Oggi con il Sole 24 Ore è mercoledì, sì. Mercoledì anche se uno non avesse il Sole 24 Ore, ma se uno ha il Sole 24 Ore di mercoledì, sa che ci sono sempre i focus, cioè sono degli allegati al Sole 24 Ore. In questo caso è importante perché parliamo della responsabilità medica e delle strutture sanitarie in genere. Sai che c'è una legge, in vigore tra l'altro da pochissimi giorni, che cambia alcune responsabilità, quindi anche l'eventuale responsabilità per danno, per imperizia del medico, obbliga all'assicurazione, obbliga alla trasparenza dei dati sanitari nei confronti del paziente. Quindi ti invito non a chiedermelo al bar, ma invece a guardare attentamente questo focus, così lo chiamiamo, del Sole 24 Ore di oggi. Oh, poi naturalmente oggi è la giornata della circolare sul 7.30, sugli sconti fiscali, già l'avevi... Ah sì, e l'ha segnata qua in agenda, guarda. Va bene, comunque oggi sulle pagine di norme tributi che tu leggerai, quindi a maggior ragione scrupolosamente, ma no, vabbè, lasciamo stare, guarda, norme tributi, ma, religiosamente, ma, no, no, ma non, è inutile, devo farmi un circolare prospettivo. È importante, mi collego alla questione medica, perché ad esempio è stato chiarito che potresti detrarti il bollo sulle fatture mediche, deve essere evidenziato a parte, però sai che capita appunto pagando la fattura che ci sia questa specie di aggiunta del bollo, ecco, può essere anche quella riportata come sconto IRPEF. Mi hai ricordato che devo pagare il bollo della moto, bravo, grazie. Beh, figurati, è la mia missione naturalmente, grazie, poi sono particolarmente contento di farlo per te. Oh, naturalmente... Le pagine di norme tributi poi sono importanti anche perché ieri è stato presentato Gerico 2017, in attesa degli ISA. Allora, fai conto che sia qui Radio Fisco e glissiamo, perché sennò la facciamo troppo lunga, però Gerico, studi di settore, tutto su norme tributi. Oh, ti invito a guardare bene a pagina 3 le nuove banconote da 50 euro in circolazione da ieri. Sì. La aspettativa, non so se puoi mostrarle anche agli ascoltatori. Ecco, mostrarle agli ascoltatori. Lo spirito con cui si passa questa nuova emissione è che si vuole rendere la vita più difficile ai falsari. Sappi che la banconota da 50 euro, come riferiamo, è praticamente la più diffusa in tutti i 19 stati che adottano appunto l'euro. Ieri c'era la battuta straordinaria di Luca e Paolo di martedì. La nuova banconota da 50 euro vale 48 euro, c'è crisi. Va bene, ecco, no, invece vale il 49%, sono quasi, il 49% delle banconote in circolazione in tutta la eurozona. Oh, e poi naturalmente il Salone del Mobile, che è molto importante, ieri si è aperto. Ne parliamo sulle pagine di imprese territoriali. Tu sei il re delle feste del fuori salone, si sa, a Milano. No, questo purtroppo non mi hanno neanche invitato, devo dire la verità, anzi rivolgo un appello se qualcuno volesse invitarmi a qualche festa del fuori salone, però invece il salone è molto importante perché questo settore per noi vale 20 miliardi, quindi non sono proprio noccioline. E infine, ultima, non per questo meno importanti, le pagine di finanza e mercati te le consiglio anche perché c'è una risposta della Banca Centrale Europea sulla salvabilità e solvibilità, scusate il gioco di parole, delle banche venete, cioè Popolare Vicenza e Veneto Banca. Leggi il Sole 24 Ore, caro Alessandro. Per il momento, traffico! Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta... Milan, siete il diavolino della Radio 24. Grande la nostra Marie-Françoise da Monte Carlo con la sua Ferrari, grande, grandissima. Allora, ti verremo a trovare prima o poi, promesso Marie-Françoise. Allora, c'è da dire che la cronaca regala tante altre notizie che vi voglio sottoporre. Per esempio, questa inchiesta sulla Stampa. Il numero è inquietante. La mafia ha in mano 5.000 ristoranti. Grazia Longo. Si comprano meno case, ma si va sempre più spesso al ristorante. È così, con la crisi del mattone, l'enogastronomia diventa il primo settore di investimento dell'andrangheta, della camorra e di Cosa Nostra per riciclare denaro sporco. Dal Caffè de Paris di Roma al Donna Sofia dal 31 a Milano, Villa delle Ninfe di Pozzuoli, in provincia di Napoli, sono 5.000 i ristoranti in tutta Italia finiti nelle grinfie della criminalità organizzata. Oltre alla ristorazione, i clan hanno interesse anche sui prodotti da tavola del top del Made in Italy, a partire dalle aranci dell'Andrina calabrese Piromalli, l'olio extravergine d'oliva del re dei latitanti Matteo Messina Denaro, le mozzarelle di bufala del figlio di Sandokan del clan dei Casalesi, il controllo del commercio della carne da parte dell'andrangheta di quell'ortofrutticolo della famiglia di Riina. Insomma, polizia, carabinieri, guardia di finanza, spesso sotto la regia della direzione investigativa antimafia, intensificano l'attività contro questa escalation di affari loschi. E beh, 5.000 ristoranti in mano alla mafia è davvero impressionante come cifra, eh? Come cifra. Oh, questo non l'ho messo nell'articolo che mi fa pensare della giornata, ma ci è andato molto, molto vicino. Il tumore curato con le erbe, su consiglio di una dottoressa che è stata condannata a 2 anni e mezzo di carcere. Lei è una seguace, secondo l'accusa, delle teorie di Hammer, Gerd Hammer, radiato dall'albo, il quale diceva che i tumori sono conflitti della psiche, nascono così e quindi vanno curati non con i medicinali tradizionali, ma con l'omeopatia, con la psicologia, con le chiacchiere, con le erbe, non lo so con che diavolerie. E comunque, Viviana Ponchia, sul Giorno, il tempo passava e quel neo sulla scapola sinistra cresceva. Era largo 5 centimetri, all'inizio dava un po' di prurito, alla fine è diventata una massa fatale, 3 volte più grande. Non farti operare è lo sfogo di un conflitto interiore che devi sciogliere. Risolto il problema psicologico sarai guarita. Così, secondo l'accusa, assicurava Santa Germana Durando. Santa Germana. Ma che è? Medico seguace del metodo Hammer, che ha avuto in cura per 9 anni Marina Lallo, morta nel 2014 a 53 anni dopo aver deciso troppo tardi di rivolgersi alla medicina tradizionale. Tisane e parole, questa era la cura invece, che non sono bastate a combattere ovviamente il cancro. E ieri questa dottoressa è stata condannata a 2 anni e 6 mesi per omicidio colposo, senza però essere sospesa dall'esercizio della professione. Ecco, questo per me è i misteri dei misteri. So, ordine dei giornalisti. Dei giornalisti, sì, perché è un lapsus. Ordine dei medici. C'è qualcosa da dire al proposito? Presidente dell'Ordine dei Medici, c'è qualcosa da dire al proposito con i tempi della giustizia tra 15 anni, quando forse arriverà la sentenza definitiva su questa dottoressa Santa Germana Durando? Non credo che sia il nome di battesimo, Santa Germana. Va bene, andiamo oltre, va. Cosa succede a Pesaro? Notizia di cronaca rimanendo sul Giorno. Succede a Pesaro una cosa strana, che lo stesso Giorno definisce qualcosa di mai visto prima. Ci sono almeno 10 denunce nell'ultimo mese, 10 di donne o mogli o figlie di capofamiglia musulmani che si sono rivolte alla procura dicendo che sono minacciate in famiglia, in un caso perché non metto il velo e mio padre non vuole, in un altro caso perché maltrattamenti e lesioni perché avrei un comportamento troppo occidentale, troppo poco islamico. Insomma, le donne islamiche dal PM, botte, minacce, ora basta. Solo a Pesaro una decina di esposti in un mese, e il Giorno dedica 2 pagine, giustamente, mi onoro di vedere, a questa vicenda. Poi compensirai. No, ecco, no, questa compensirai, chi se ne frega. Questa volevo dire, c'è una foto che gira, l'ho vista solo su Repubblica, pagina 15. Vedete che se si vuole si può, a proposito di velo islamico. Teresa May, riprendila qua, falla vedere sulla mia pagina Facebook, il profilo pubblico. Teresa May, premier britannico, è andata in Arabia Saudita e c'è questa foto in mezzo a tutti i reggenti sauditi, tutti velati, eccetera, lei senza velo. Nonostante il Foreign Office gli abbia consigliato di mettere il velo, non l'ha messo, come ha fatto di recente Marine Le Pen, accusata di volere... Vedete, Theresa May, che certo non è una di destra, è una liberale, cioè, l'ha fatto. Dalla democrazia più antica del mondo, senza velo, in Arabia Saudita, si può fare, non ci hanno dichiarato guerra, non hanno dichiarato guerra l'Arabia Saudita e la Gran Bretagna. Se si vuole, con un gesto di libertà, Theresa May lo ha fatto, si è presentata senza velo. Va bene, ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccoci qua, sulla Verità arriva la zanzara. Non è Cruciani, no, quello arriva. Arriva la popola zanzara. Zzz, colpisce all'imbrunire, è attratta da colori scuri, dagli odori forti. Sono i flagelli di stagione. Una pagina. Ma chi se ne frega!